Enthusiasm about, sì, va bene, buonanotte. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Allora, cari ascoltatori, è una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo qui in diretta fino alle 11 con voi, con il buon Leonardone Manera che arriva un po' più tardi, lo sapete, e con la nostra redazione Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Danilo Di Trani. Forza Milan sempre. Anch'io sono d'accordo con te, Danilo. Rimette in mezzo che sì, Alpino. Porta sì, quasi vuota, palo di Rebic e poi il Milan va in vantaggio. Il gol di tutto senza Rebic esultanze. Non capisco perché il pubblico non esulti come meritatamente dovrebbe. Vabbè, tra l'altro segnalo, gli ascoltatori, signori, hanno dato ieri un rigore al Milan. Non so se questo è una causa di non omologazione del risultato finale, ma vedremo in settimana cosa dice la federazione. Dai, signori, 9-8 minuti, oggi abbiamo tanti temi di cui parlare. Vai subito, Alpino, vai! Enthusiasm about the future. Voi sapete che potete chiamarci all'800 24 00 24, potete scriverci al 349 238 6666. Io sono rimasto colpito. Allora, avete fatto la richiesta per il bonus ai nonni? Il bonus, cioè adesso lo Stato paga con un bonus, con un voucher, con un po' di soldini, 1200 euro. Quei nonni che per tutta la vita hanno fatto già i babysitter, perché si sa che ci sono moltissimi nonni che già da anni fanno questo gratuitamente. Adesso però lo Stato dà un altro bonus. Stavo ragionando che siamo un'economia non più di sviluppo, per carità, non più di sussistenza, neanche di esistenza. Ormai siamo un'economia di assistenza a 360 gradi. Certo, lo so che fanno comodo quei soldini nelle famiglie che entrano, che vengono dati ai nonni, poi magari quei nonni che stanno bene, lo so che generosamente li rigireranno ai loro figli, che così potranno andare a lavorare. Intanto segnalo, e ne abbiamo fatto due puntate, che i disabili sono con degli accompagnamenti e dei soldi miseri, con delle situazioni francamente difficili. Oggi torneremo con il nostro amico Stefano Geller. Qualcuno fa notare che forse tutti quei soldini che vengono dati è il voucher vacanze, è il voucher babysitter, è il voucher per i campi estivi che sono pressoché deserti perché la gente ha paura, vabbè, ma questo non ci si può fare niente, è il voucher di qui, il voucher di là, il voucher di sul, il voucher di giù. Magari questi pochi soldi fossero destinati allo sviluppo del mercato del lavoro per rifar ripartire l'economia e quindi far trovare posti di lavoro invece che tanti voucher di qui, voucher di là. Vabbè, ma insomma abbiamo deciso che è un'economia di assistenza allo Stato puro e a lei. Andiamo avanti così. A proposito di lavoro, oggi, devo dire, sia ieri Sergio Rizzo si concentrava sulle spese del capo dell'ANPAL, quel professor Mimmo Parisi che siamo andati a prendere dal Mississippi e che, se forse ricordate, siamo stati i primi a intervistare qui a Uno Nessuno 100 Milan quando era ancora in Mississippi col suo italiano mezzo inglese, e ci spiegava che avrebbe sistemato, come in Mississippi lì, la questione con i navigator per trovare posti di lavoro, tutti rilanciare col reddito di cittadinanza. Ovviamente qui si diceva che il reddito di cittadinanza, non per la parte assistenziale che è doverosa per chi è in difficoltà, io sono il primo, sarei il primo a dargli di tasca mia, potendo, a chi è in difficoltà, dei contributi, dei soldi, ma nella parte in cui si diceva il reddito di cittadinanza è la prima il primo passo per poi ricreare posti di lavoro attraverso i navigator, questo era una follia e si sapeva già, perché i posti di lavoro non si creano grazie ai navigator, si creano se i posti di lavoro ci sono. E infatti oggi Repubblica con Valentina Conte torna sul tema, sostanzialmente direi 2980 navigator sono perfetti fantasmi, scrive Repubblica. Risultato: nessuno sa esattamente che cosa facciano, quanti posti hanno trovato. In Lombardia, per esempio, l'assessore al lavoro della Lombardia Melania Rizzoli dice zero contratti di lavoro a parte il loro. Forse anche un po' polemica, diciamoci la verità, non ha funzionato l'idea. E poi si riferisce anche al suo inventore Mimmo Parisi, va bene, ma qui c'è una polemica adesso anche personale per le spese di Parisi, la casa, i viaggi in prima classe in aereo per tornare in Mississippi. Sta di fatto che è chiaro, i posti di lavoro, i navigator non li possono creare dal nulla. Soprattutto adesso col coronavirus, insomma, mi sembra di poter dire che il risultato non sia dei migliori, per usare un eufemismo. Comunque, cari ascoltatori, oggi parleremo di tanti temi. Se volete parliamo di questo, parliamo di scuola, parliamo di coronavirus, anche economia. Sapete che sono i temi che ci interessano, la vita reale, quotidiana. Certo che però poi uno può occuparsi di tutto, ma a volte piombano, proprio ti piombano addosso delle notizie che uno vorrebbe scrollarsi di dosso, ma che ti entrano talmente tanto e non puoi non parlarne. E devo dire anche la verità, non sai neanche come parlarne, perché sono delle notizie, mi riferisco alla vicenda del padre che ha ucciso i due figli, di fatto per procurare alla moglie un dolore eterno, quel messaggio non li rivedrai mai più. E sono quelle notizie che anche chi si occupa da anni di cronaca, di cronacaccia come viene definito, di cronaca nera, come è il caso di Andrea Galli del Corriere della Sera, sono quelle notizie che credo uno poi non affronti con quel distacco professionale che è sempre dovuto e che non sempre si riesce a mantenere. Non so se sia così, ma credo di saperlo, perché con Andrea ci siamo sentiti nel weekend. Andrea, buongiorno e grazie. Buongiorno Alessandro, qui. Buongiorno. Saluto anche Gianna Schelotto, psicoterapeuta, buongiorno. Nostra amica, mi permetto di dire, che ci aiuterà un po' a capire se si può capire qualcosa. Andrea Galli, tu che cosa hai capito da giornalista che in tante di queste storie ti ci ritrovi, ma forse non così? Ma io in realtà è da sabato che mi sto facendo delle domande e poi ne approfittavo per farla anche alla dottoressa Schelotto. Cioè, la domanda che mi sta tormentando è come sia possibile che quest'uomo uccide i figli, trascorre delle ore, non viene colto immediatamente da alcun rimorso per il fatto di averlo ucciso, se ne sta in salotto due ore, poi prende la sua, manda il messaggio alla moglie, prende la macchina, percorre 35-40 minuti, li ho fatti, sono tutti tornanti, è una strada parecchio difficile, quindi comunque ti devi impegnare per fare questa strada, parcheggia in perfetto ordine, fa la sua camminata sul ponte e si lancia per 90-100 metri. Cioè, a me questo, questo tempo passato dopo l'uccisione dei figli, li uccide, li gira con il volto all'ingiù ovviamente per non vederli in faccia e poi però aspetta, cioè si prende del tempo, non ha reazioni scomposte immediate, sta calmo e segue tutto il suo iter che dura due ore e mezzo, tre ore, e non c'è mai, cioè è un uomo che aveva la mia età, è un genitore come me, come te, non c'è mai stato un, cioè io mi chiedo come sia stato possibile, e lo chiederò alla dottoressa, che non ci sia mai stato un secondo, due secondi, tre secondi in cui un interruttore gli abbia detto aspetta, no, fermati. Fermati. Cioè non è stato, fermati, cioè è stato talmente tutto lungo, perché comunque poi uno dei bambini probabilmente non si era svegliato mentre lui faceva quello che doveva fare e ha continuato lo stesso mentre l'altro figlio già non c'era più. Il tempo, cioè la gestione di queste due, tre ore, sì, e tanti fatti uno dopo l'altro. E io aggiungo, dottoressa Schelotto, magari ci può aiutare a capire, aggiungo, ma leggendo gli articoli di Andrea Galli anche oggi sul Corriere della Sera, emerge l'estrema lucidità, bisogna usare lucidità di questa persona, totale. Addirittura Andrea, in quei particolari che andrete a leggere, non so, la macchina perfettamente pulita, sì, come se fosse uscita da un concessionario, tutto in ordine, tutto preciso. Cosa possiamo ipotizzare, dottoressa Schilotto, che cosa sia scattato nella mente di quest'uomo? Allora, io penso che quell'interruttore sia scattato prima e abbia alterato infatti si parla di lucida follia. Allora l'interruttore è scattato nel momento in cui lui ha deciso di fare questa cosa terribile e quindi ha coperto tutto il tempo, persino il concetto di tempo è saltato via in lui, era come un automa a quel punto, aveva messo in moto questo progetto e stava facendo tutte le mosse necessarie per portarlo a termine. Ed è agghiacciante proprio perché appunto noi continuiamo a pensare a una persona che sia in grado di intendere e di volere e invece lui non era nell'uno né l'altro evidentemente. E quindi cioè, il suo progetto era quello di fare il più male possibile alla donna che gli aveva fatto male, secondo lui. E nel momento in cui scatta questo interruttore, tutto procede con una lentezza esasperante, ma con una lucidità assoluta che veramente noi non siamo in grado di capire fino in fondo. Sì, tra l'altro io aggiungo, oggi sul Quotidiano Nazionale apre proprio con la domanda che Andrea Galli ha posto, cioè mette la foto dei due figli con il titolo "Ma come ha potuto?" E questa è una domanda che forse, come dice, come si chiede anche il poeta Davide Rondoni all'interno, alla quale non avremo mai una risposta compiuta, anche perché questa persona non c'è più, insomma, si è tolta la vita. Certo, tu Andrea hai cercato in questi 48 ore di capire un po' la vita di questa famiglia, di quest'uomo, e sembra proprio, ecco, mi ha colpito la classica famiglia perfetta, no? Quando si dice la famiglia del mulino bianco. Andrea, ma è davvero, davvero così, almeno dal resoconto delle persone che li hanno conosciuti? Sì, io diffido sempre delle famiglie del mulino bianco, preferisco le famiglie un po' tormentate. E in realtà era così, poi chiaramente ne abbiamo avuto un tempo ridotto per entrare nella vita di queste persone, però una decina di interlocutori di vario tipo hanno comunque descritto la normalità di una famiglia che scorreva tra il lavoro, la prima casa, la seconda casa, i figli e la cosa più interessante, diciamo così, è che non abbia mai dato adito in casa, quindi con la donna con cui dormiva, di alcun tipo di problema, nel senso che anche questo tema della separazione che lei aveva avviato, lui aveva soltanto fatto un'obiezione all'inizio dicendo: a me mi spaventa l'idea che non posso più vedere i figli, e lei le aveva detto assolutamente come non ci sono problemi, che è il timore insomma di milioni di persone, ecco. Di qualunque genitore, però non c'era state mai avvisaglie di alcun tipo, e quindi lui per settimane, per mesi è andato avanti linearmente senza tornare sull'argomento, senza chiedere più nulla, senza innescare polemiche, senza fare litigi, senza parlarne con i propri genitori, senza parlarne al lavoro, senza parlarne a calcetto, senza parlarne ai vicini di casa, della casetta di Mario, nelle chiese, senza parlare con quelli con cui andava in bici, senza parlare con quelli con cui faceva le camminate in montagna. Sì. Zero. No, ma zero. Ecco, dottoressa Schilotto, questo tema della separazione è un tema delicatissimo, perché su questo figurarsi si sono scatenati tutti, ma è ovvio che nessuno può pensare, nessuno può legare le due questioni, se no magari nella lucida follia di quest'uomo, ecco. Però è un tema, lei che di separazioni, lei che di persone tormentate ne ha conosciute tante, cioè, si può anche solo accennare alla questione separazione accostandola a questa vicenda, oppure non dobbiamo proprio addentrarci in questo campo? Ma le separazioni sono, voglio dire, i distacchi in queste storie che cominciano con qualcosa che si ritiene amore e finiscono con la morte, hanno in sé un qualcosa di arcaico, di inesorabile. Voglio dire, il problema degli uomini che non riescono a superare il distacco, che non riescono a reggere il distacco, è una cosa molto più, come dire, molto più vasta. Per fortuna non finisce sempre solo con le tragedie, però gli uomini hanno una grande difficoltà ad accettare di essere abbandonati, perché è come se vedessero distrutta la propria identità, e questo non riescono ad accettarlo. In quest'uomo, in questo padre che uccide i suoi due figli, evidentemente la notizia è arrivata dentro come una bomba inesplosa. E quando lui ha pensato di partire per le vacanze con i bambini, chissà se aveva già deciso, oppure se c'è stata un'implosione proprio nel momento in cui si è reso conto che nella vacanza, nella presenza dei suoi figli, riuscivano a, come dire, a sedare questa tempesta che si portava dentro. E quindi certo, le separazioni sono sempre, come dire, momenti di grande sofferenza. Certo che è proprio vero. Per esempio, ci chiede un ascoltatore in diretta, dottoressa Schelotto, se anche questa chiusura, cioè il famoso lockdown, abbia potuto contribuire. Noi ovviamente non lo sappiamo, stiamo facendo ipotesi. Aggiungo un particolare. Ieri leggevo un'intervista a uno psichiatra, dire è vero, cioè che questo è quasi peggio, passatevi, è quasi peggio che avere ucciso direttamente la moglie, è averla condannata al dolore eterno, certo. E non solo, ma nel momento in cui quest'uomo decide per la perdita di se stesso, quindi questa cosa del suicidio, lui deve averla concepita prima di uccidere, sì, i bambini. Ecco, e allora a quel punto lui, se deve perdere se stesso, deve creare la perdita, anche non solo la perdita dolorosa, straziante per la moglie, ma anche la perdita di quella parte di sé che è contenuta nei suoi figli. Sì, perché a questo punto, cioè, nella moglie non c'è neanche la possibilità di, come dire, odiarlo fisicamente, di provare delle rabbie. Cioè, a questo punto è come dire sei sola con il tuo dolore per sempre. Ed è questa la parte, come dire, terribile di questo, non lo so. Ecco, torno ad Andrea Galli. Qualcosa Andrea ha scritto oggi sul Corriere, anche se secondo me opportunamente, dicendo è inutile adesso andare a vedere i messaggi, cosa possa aver scritto, le colpe che possa aver riversato sulla moglie, per carità, cioè ci manca anche di aggravare la situazione di questa povera donna che si trova con una vita segnata in questo modo, no? Tu da questo punto di vista sull'idea del disegno, Andrea, cosa io pensi? Io sono assolutamente convinto che ci sia stata una pianificazione per tempo, anche per il semplice fatto che lui non era mai, questa casa è di proprietà dei genitori della moglie, e non nei 12 anni di vita dei gemelli lui non era mai stato per più di un giorno da solo con i gemelli, mai. Questa è la prima volta nella sua vita che è partito mercoledì e sarebbe dovuto tornare sabato, quindi 4 giorni. È evidente che fosse partito, secondo me, da quello anche che mi hanno detto, che sta investigando, che fosse partito con in testa quel disegno, perché lui sarebbe dovuto tornare sabato e sabato invece non c'era più lui, né lui né i gemelli. Tra l'altro investigare, ma cosa c'è da investigare adesso? No, ma lo chiedo proprio. Volevo aggiungere questa cosa. È vero che è la prima volta che lui va solo con i bambini, ma è anche la prima volta che si misura con questa storia della separazione. E allora diamogli anche, come dire, questa possibilità di pensare che, andando via con i bambini, avrebbe ritrovato se stesso, avrebbe chissà che cosa aveva in mente di fare, se è partito già con l'idea di ucciderli, o se questa cosa è maturata in lui, è implosa in lui a poco, nel momento in cui si è reso conto che nemmeno questa cosa riusciva a placare la sua disperazione. Certo che, guardate, io ci sono tante storie simili, se volete anche la letteratura regala anche delle pagine straordinarie. Per me uno dei migliori libri in assoluto mai scritti è L'avversario di Emmanuel Carrel, che proprio racconta la storia vera, un romanzo verità, della storia di Jean-Claude Romain, francese, che di fatto stermina tutta la famiglia. Ma lì c'era anche una vicenda diversa, cioè lui per anni ha mentito dicendo che era un funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fingendo di andare in giro per il mondo per convegni, e quando gli è franata tutta questa falsa verità che si era costruita, ha trovato come unica via d'uscita quella di sterminare tutta la famiglia. È una questione totalmente diversa. Ci hanno insegnato però, Andrea, che c'è sempre un movente che muove, no? di fronte a certi, cioè, il movente è la prima cosa. Qui non possiamo chiedergli quale sarà il movente. Certo che rimane questo grande punto interrogativo, non so, tu hai chiesto cosa c'è da investigare, tu hai detto niente, giustamente, cioè cosa c'è da, sì, c'è da capire la dinamica, voglio dire, ma a che pro? Cioè mi chiedo veramente perché, no, per capirla senso, nei minimi dettagli, voglio dire, cosa cambia, non ci sono persone da... Non sono persone da interrogare. Da indagare a questo punto. Lui ha... ha fatto tutto per punire la moglie, per lasciarla in vita senza tutta la famiglia, senza i figli. Tra l'altro anche una delle cose più, perché poi no, quando ci si occupa di queste cose poi gli tornano in mente le ore successive, anche questa cosa della moglie che viene svegliata di notte mentre sta dormendo da un messaggio, si mette in macchina, gessate, corre, immaginando, certo, ma non sapendo, è tutto terrificante. Poi io non indugio mai nella retorica, ma l'urlo della moglie, io ti giuro, tutte le persone che ho sentito in quel quartiere, l'urlo della moglie alle 7 del mattino, mi hanno detto, cioè c'era gente che ancora ieri tremava, cioè hanno detto una cosa oltre l'innaturale, cioè io ne seguo tante di vicende, per l'amor del cielo, ma questa, cioè, ci sono stati soccorritori che anche il pomeriggio dopo il 118 gli parlava di questa vicenda, vomitavano per quello che avevano visto, non oltre la pesantezza, cioè veramente una vicenda terrificante. Terrificante. Io vi ringrazio, insomma, ringrazio Gianna Schelotto, psicoterapeuta, ringrazio Andrea Galli, inviato del Corriere della Sera, che ha raccontato in questi giorni questa vicenda. Ripeto, quando arrivano queste storie sulle quali si può, io dico, mai giudicare, ma meditare, questo già è il primo passo, poi uno tutte le altre vicende le mette un po' in secondo piano, certo, per un attimo, poi la vita va avanti, lo sappiamo. Intanto vi ringrazio, diamo un attimo in pubblicità e poi affrontiamo, se volete, gli altri temi che compongono la vita quotidiana di tutti noi e sui quali torniamo a concentrarci. Grazie. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, lo sai perché richiamano Navigator? Perché navigano fra un ufficio e l'altro senza fare una mazza. Voucher vacanze, voucher nonni, voucher babysitter, voucher per andare in bagno. Ma io la cassa integrazione ancora non l'ho vista. Pensiamo piuttosto a togliere i vitalizi invece che togliere i voucher, no, per dai, i nonni o il bonus per i campi estivi. Allora, i vitalizi basta, chiudiamola questa storia, e lo dico io per primo che per anni ho detto i vitalizi sono un errore, ma questa storia dei vitalizi che risolve una briciola della spesa pubblica italiana è una questione di principio, ma sì, è una battaglia, se volete, che si può portare avanti, però dai, basta. Invece l'ascoltatore che dice, infatti, datemi la cassa integrazione. Questo sì, dategli la cassa integrazione invece del voucher per andare in vacanza. Date un voucher spesa a Leonardo Manera. Le uova. Sì. Come sta il frigorifero? Il frigorifero è sempre vuoto con dentro la zucchina resistente. Ma quella zucchina quanti giorni ha, scusa? Ne verrà quindicina, credo. Una zucchina che assume ogni giorno delle forme, sembra una torsione di Scopas, il grande scultore greco. Mi fa compagnia, adesso manderò una foto della zucchina perché si sta ingobbendo sempre di più. Invece ho trovato delle uova che scadevano il 24 giugno, adesso mi chiedo, uova scadute il 24 giugno sono ancora edibili? Ma sì. Oppure è meglio non mangiarle? Ma sì. Seconda domanda, le uova che rimangono per tanto tempo così, cosa succede? Come diventa un uovo se io lo tenessi ancora per 5-6 mesi? cosa c'è poi dentro l'uovo? Allora, perché il pulcino nasce. No, l'abbiamo chiamato per tutt'altro, ma visto che insomma Roberto Bertolini rappresentava l'OMS verso l'Unione Europea, adesso è membro della Commissione Salute della Commissione Europea e consulente per il Ministero della Salute del Qatar, ci saprà dire cosa succede a quattro uova scadute da quattro giorni secondo la data di scadenza? Se le lascio per dei mesi, così, no, cosa diventano? Non lo so. Bertolini è notoriamente, buongiorno, il suo campo di battaglia, sì, le uova. Che dobbiamo fare con queste uova di maniera? Diamo una mano a questo povero. Sì. Quello del 24 magari la cuocia, la faccia una frittatina, insomma una cosa così, non se la mangi e vede un po' il colore, vede un po' il colore, se c'è il pulcino nel frattempo. Quelle che teniamo mesi, meglio di no. Come la zucchina. Sei affezionata a questa zucchina che ogni giorno si ingobbisce sempre più, cioè marcisce, e la tiene lì nel frigo e fa le foto e dà questa immagine di sé di uomo distrutto. Oggi andrò a fare la spesa, ma conserverò la zucchina. Meno male. Perché ci si affeziona. Dalla in cambio, dalla dentro, come si suol dire. Sì, sì. Vabbè. Bertolini l'abbiamo chiamata per altro, insomma. Intanto, ma lei ci aiuta a capire, oggi vedevo sul Corriere della Sera che 10 scienziati hanno fatto il controdocumento contro i remuzzi e gli zangrillo, tanto per capire, coloro che hanno detto che clinicamente il virus si vede sempre meno. Adesso gli infettivologi dicono no, il pericolo resta. Qua non ci si capisce più niente, Bertolini. Ma guardi, Mila, questa è una polemica francamente un po' stucchevole, perché voglio dire, il problema è molto semplice: il virus esiste, c'è, circola, siamo al massimo della, abbiamo 10 milioni di casi in tutto il mondo, cioè io non, 500.000 morti, insomma io non credo che si possa dire che il virus sia finito o che abbia diminuito la sua forza. Poi questo discorso dal punto di vista clinico io francamente non lo capisco, cioè credo il virus c'è, circola, sta diventando endemico in alcune situazioni e bisogna mantenere alta la vigilanza, perché la possibilità che rivenga fuori con un'epidemia, con un cluster eccetera è molto forte, tant'è vero. Ma che ci perché sono non la capisce questa questione? Cioè il tema è, se il virus rimane, ma sto facendo un'ipotesi, ma non crea più malattie gravi, cioè ce ne sono tanti di virus, non è che possiamo aspettare di debellarlo totalmente, no? Si potrebbe anche vivere serenamente con i non so quante migliaia se non milioni di virus che già esistono, se non crea gravi. Io credo che in effetti il futuro sarà probabilmente una cosa di questo genere, cioè noi dovremo convivere con questo virus. Io credo francamente che una delle grandi svolte, diciamo così, della gestione di questo problema sia la scoperta di terapie efficaci che ci possono essere, che ci sono già in parte per alcune forme molto gravi. Laddove noi avessimo delle terapie efficaci per ridurre la gravità delle forme più severe e ridurre quindi la mortalità, avremmo risolto gran parte del problema, perché almeno dal punto di vista della mortalità terremo la situazione sotto controllo. Quindi io personalmente credo che dovremmo imparare a convivere con questo virus come con tanti altri virus. Non credo che il virus scompaia come è successo per la SARS, perché ormai è endemico in tutto il mondo. Quindi penso che la soluzione sia quella di puntare sulle terapie, puntare ovviamente sul vaccino, però ancora abbiamo molta strada da fare, perché nonostante l'appello che c'è stato ieri per farlo a tutti i cittadini del mondo, stiamo parlando di miliardi di dosi e bisogna distribuire questo vaccino, bisogna darlo, bisogna produrlo, e ritengo che sia una cosa per la quale ci vorranno molti molti mesi. Ma un virus che diventa endemico comunque tende a essere meno grave come effetti. Sì, alla fine, durante, diciamo, il virus diventa endemico, ovviamente ha una maggiore diffusione della popolazione, ci sono molti più casi asintomatici e quindi la situazione diventa, diciamo tra virgolette, un po' più gestibile, però diciamo non esclude il fatto che ci siano nuovi casi severi, non esclude il fatto che ci possa essere una seconda ondata. Perché noi non ancora questo virus è comparso, oggi siamo a giugno, è comparso 6 mesi fa, almeno è stato identificato 6 mesi fa, e ne sappiamo ancora abbastanza poco, nonostante siamo moltissimo. Cioè, però una cosa si è capita poco. Però, Bertolini, allora la mia amica Saretta mi ha mandato un video straordinario che proviene dalla Florida, peccato, vabbè, siamo in radio, il video non si può vedere, ma non mando neanche l'audio perché è in inglese, una commissione pubblica, sono intervenuti tantissime persone, tantissimi americani, tantissimi, non so quanti ne rappresentino, che sono contro le mascherine. Allora, la parola che utilizzavano più spesso era God, cioè Dio. Dio ci ha fatto liberi, Dio ci ha dato il respiro e il nostro respiro non sarà imbrigliato dalle mascherine. La libertà di espressione, la libertà di movimento. Risultato, la Florida è uno degli stati degli Stati Uniti d'America con la maggiore concentrazione e diffusione del coronavirus. E io ho pensato, ma guarda te che cosa la libertà può portare a livello di imbecillità, tante volte. Ovviamente dicevano, non siamo a Cuba, non siamo nel comunismo, tenetevela voi la mascherina. Cioè argomenti di questo genere, o risponderete a Dio perché Dio non vi farà scappare. Risultato, il disastro, in Florida come in Texas. Guardi Mira, io ho partecipato a una conferenza della Bosch Academy dove ha parlato un collega, un giornalista, un suo collega della New York Times, il quale diceva che oggi come oggi negli Stati Uniti la mascherina ha una connotazione politica, se tu sei repubblicano la metti, se sei democratico la metti. Questo mi sembra il colmo, il massimo del delirio possibile, nel senso che non è assurdo tutto ciò, cioè quello che lei ha letto adesso è veramente un non senso. La mascherina serve a proteggere sia coloro che sono malati, diciamo persone che non sono malate, ma sia anche gli operatori sanitari, quindi è veramente una cosa direi quasi criminale, appunto, diffondere questo tipo di informazioni. Poi vabbè, anche noi abbiamo comunque la nostra parte. Ho sentito delle dichiarazioni del signor Pappalardo ieri che parlava di vaccini, lui i vaccini non li farà mai. Vabbè, questi sono personaggi folcloristici, però purtroppo hanno il loro ruolo nell'opinione pubblica, perché a quanto pare negli Stati Uniti sta succedendo quello che lei ha detto. Ho visto delle manifestazioni di persone palesemente senza mascherina, ma in modo provocatorio, cioè. Guardi, siccome lei l'ha citato, glielo faccio sentire, ma è colpa sua, è colpa di Bertolini, sentiamo Pappalardo, ma è colpa di Bertolini, l'ha citato lui, quindi per dovere di cronaca io non l'avrei, vai Pappalardo. Quanti vaccini noi abbiamo congelati nei congelatori? 32 milioni di dosi di vaccino chiusi lì dentro. Qualcuno dice, ma quando li utilizzeremo? Se il Movimento Civile Arancione va al potere, signori, questi vaccini li devono utilizzare. Io li metto tutti in posizione prona e il vaccino lo faccio a tutti loro. Cosa vuol dire li mette in posizione prona? Cioè, era una minaccia anche vaga. Era una minaccia vaga. Era una vaga minaccia. C'era queste, te li vedi. Poi tutti chi? Vabbè, ma lei tra l'altro sta in Qatar. Si sono ammalate un casino di persone in Qatar, di coloro che devono fare gli impianti per i mondiali di calcio. Ricordiamoci che sono i mondiali di calcio, non so se. Sì, si sono ammalate molte persone, però in forma molto lieve, sono state anche poi curate, diciamo, abbastanza bene, per cui la mortalità è molto bassa, anche perché sono molto giovani, quindi sono vari fattori che sono intervenuti. Adesso la situazione anche qui è molto in avanzato, diciamo, l'epidemia sta finendo, sta andando giù, diciamo, in maniera molto significativa. E soprattutto la cosa più confortante per questo paese a confronto con quello con l'Italia, appunto, è che ci sono stati fino ad oggi 100.000 casi e 110 decessi soltanto, quindi insomma è una cosa molto positiva da questo punto di vista, però ripeto, il fattore centrale è stato l'età della popolazione. Esatto. E vedi che ci conforta anche lei. Vedi che ci conforta anche lei a dire sono ammalati ma non gravi. E io è questa cosa. Io, Leonardo Manera anche. No, a proposito di mascherine, io vedo anche qui a Milano ho la sensazione che vengano portate veramente nei supermercati e basta. Ti misura la febbre, poi nei supermercati trovi tutte quelle mascherine. Se vai in giro di sera, persone con le mascherine ne trovi veramente poche. Forse questo dipende dalla percezione di un pericolo che comunque è minore rispetto a prima. Ma guardi, io non penso che ci sia anche un problema, qui si dice di lockdown fatigue, cioè il fatto che praticamente dopo tutti questi mesi in fondo la gente non ne può più, e quindi anche qua per esempio c'è l'obbligo di portare le mascherine. Se si ricorda, abbiamo parlato tempo fa appunto che c'è una multa di 200.000 catari corrispondenti a 50.000 euro, cioè cose di questo modo. Voglio dire, e ciò nonostante lei va in giro e la gente le mascherine non le porta quasi più, soltanto al supermercato. Ma che gli frega? Gli danno due pozzi di petrolio se la pagano così. Insomma, ti do 50.000 euro, ti do i miei due pozzi di petrolio che ho in giardino e la chiudiamo così. Vabbè, dai, scherziamo. Anche su un tema in realtà molto serio, noi Bertolini la ringraziamo. Roberto Bertolini, ripeto, ha rappresentato l'OMS presso l'Unione Europea, ora lavora come consulente in Qatar e anche commissione salute presso la Commissione Europea. Caro Leonardo, qui dobbiamo andare al traffico. Allora, tu sei andato a Masone? No, non andare verso Masone, che abbiamo sentito in Liguria un disastro. No, i cantieri. Sono andato però sabato a Salò. Posso fare un po' di pubblicità per le mie terre d'origine? Bellissimo. Ho fatto anche il bagno nel lago. Bravo. Lago, Salò, un bel posto, quindi consiglio, ecco, per i lombardi che non vogliono muoversi dalla Lombardia, di andare magari sul lago di Garda, tanti bei posti, si può fare il bagno nel lago del lago. Non ci sono molti molti non ci sono le meduse. No, non ci sono le meduse. Molti hanno paura dei lucci che possono arrivare dalle profondità. Uno, nessuno, 100 Milan. Non era per vedere se l'uovo è edibile oppure no, lo devi mettere in acqua. Se galleggia, come credo nel caso delle tue uova stagionate, non, meglio non mangiarlo. Ciao. L'uovo si sente benissimo quando non si può mangiare, puzza. L'uovo è uno degli alimenti che si svela. Quando puzza, non si mangia. Come l'ospite. Mi è arrivato così, un altro messaggio. Dal fatto che se galleggiano sono da buttare, se vanno a fondo sono buone. Può essere che semplicemente non sappia nuotare l'uovo. È partita la disfida. È partita la disfida. Allora, intanto io ho detto il lago di Lecco di Como, poi ho detto il lago di Como nel ramo di Lecco, perché in realtà è partita già la rabbia. Miriam Lucchetti, che è dalle parti del lago di Como, dice il lago di Lecco non esiste, e anche Lorenzo Nespoli, che è da quelle parti, il lago di Lecco non esiste, al limite chiamalo lago di Como nel ramo di Lecco. Miriam Lucchetti dice che il lago di Como è il più bello di tutti, il suo colore che vira verso il blu di Prussia è unico. Mentre Saretta, la mia amica Saretta, dice che il lago di Lecco, lato Como, è il più bello. Quindi lei lo chiama lago di Lecco perché lei viene da quelle parti, lo chiama anche lago di Lecco. Per Chiaretta, invece, il lago di Garda è roba da tedeschi, è proprio roba da tedeschi. Mentre invece per l'Alpino in regia, lago di Garda tutta la vita. Allora, per Manera è il lago di Garda, per me è il lago di Como. Saretta si arrabbia, dice il lago di Lecco esiste e come, punto. E punto lo scrive anche in maiuscolo. Allora, la grande differenza, poi chiudiamola per la questione, è che il lago di Como ti dà l'idea di essere in un lago. Il lago di Garda, in certi punti, ti dà l'idea di essere al mare, è molto più ampio, con spazi diversi. E allora, quindi, scusa, se vuoi andare al lago, vai in un lago, no? Se vuoi andare al mare, vai al mare. Tu fai come vuoi, fai un po' quello che vuoi, sono fatti tuoi, Alessandro Mira, mi hai già seccato. Vai. Allora, a quanto pare sarà l'estate dei piccoli focolai, non più intere zone rosse, ma aree circoscritte nelle quali magari chiudere per un periodo limitato di tempo. I piccoli focolai, che fanno ancora paura, ma che soprattutto da parte dei media andrebbero trattati senza diffondere panico. D'altra parte è noto che i media, pur di attirare l'attenzione, qualche volta eccedono, soprattutto coi titoli di giornale. Per esempio, vediamo che titoli potremmo trovare in certi giornali nel caso di piccoli inconvenienti, magari domestici. Se si guasta la caldaia, come è successo a me, il titolo potrebbe essere il grande gelo. Se c'è un blackout occasionale, il titolo potrebbe essere buio per sempre. Se si perdono le chiavi di casa, il titolo potrebbe essere dramma sul pianerottolo. Lasciamo stare che poi le caldaie si riparano, i blackout sono momentanei, i fabbri servono anche per aprire porte chiuse e installare nuove serrature. I titoli servono a creare attenzione e, perché no, anche a creare un po' di paura che fa vendere. Quella paura che in questi mesi ci ha accompagnato e che qualche volta si è trasformata in panico. quella paura che spesso ha fatto parte anche delle nostre vite, quando soprattutto le nostre madri, in ogni occasione, ci mettevano in guardia facendoci notare che il pericolo era proprio lì, dietro l'angolo, qualsiasi cosa facessimo. Ad esempio, se andavo a pattinare sul ghiaccio, mia madre mi diceva «No, che poi cadi, metti le mani a terra, passa un altro coi pattini e ti trancia le dita». Se andavo sugli autoscontri, mia madre mi diceva no, che sbatti la faccia sul volante e ti rompi i denti. Quando andavo a fare il bagno nel lago, appunto, mia madre diceva no, che nel lago ci sono i mulinelli. I mulinelli sono dei vortici d'acqua che ti portano... che ti portano sul fondo. Qualcuno forse nella storia sarà anche stato inghiottito dai mulinelli nei laghi, ma credo che siano veramente episodi rarissimi e che invece per mia madre si sarebbero dovuti verificare ogni volta che andavo a fare il bagno. Se andavo a giocare a pallone, mia madre diceva no, che ti arrivano pallonati in un occhio e diventi cieco. Se giocavo a scacchi, mia madre diceva attento che ti va il cavallo nell'occhio. Insomma, mia madre sarebbe stata un'ottima titolista. Adesso ci sono i piccoli focolai e si parla già di seconda ondata. Io che sono un cittadino comune che non sa niente di infezioni e virologia, come dovrei comportarmi? Immaginando quello che avrebbe detto mia madre oppure guardando a come si sarebbe comportato mio zio? Mio zio, al contrario di mia madre, era un inguaribile ottimista e per lui ogni problema era sempre risolvibile, forse perché aveva fatto la guerra e aveva imparato a distinguere i pericoli. Ecco, forse la chiave sta tutta lì, nell'esperienza sul campo, nell'affrontare i problemi man mano che si presentano, perché la vera fregatura è la paura del futuro. La fregatura sta nell'immaginare tutto il brutto che potrebbe succedere, che ti fa anche trascurare il buono che c'è già. Prepariamoci al peggio, ma con un sorriso per il presente che non è poi così male. E speriamo di poter togliere presto le mascherine, anche perché con le mascherine mia madre non mi avrebbe mai dato scampo. Tenendo le mascherine mi avrebbe detto rischi di soffocare, non tenendole mi avrebbe detto così prendi il virus. Insomma, non ci sarebbe stata via di scampo. Invece la via di scampo c'è sempre o quasi. L'importante è saperla vedere anche quando, leggendo certi titoli un po' esagerati, ti si è annebbiata la vista. Oh, bravo, bravo Leo. I lucci coi denti aguzzi effettivamente te li sei dimenticati, potevi metterli in questo pezzo. Ma davvero c'è gente che teme? Oh, aspetta, aspetta, è partita la disfida dei laghi. C'è Fusconi che lancia il lago di Lugano. E certo, in Svizzera, però sta qui in Italia. Lago di sì, Lugano cosa c'è? Proprio lo sconsiglio. Sì, mi ricordo, lo sconsiglio, mi ricordo. Sì. C'è l'acqua fredda, i sassi aguzzi. Sì. E c'era sì, anche sì. il mago, come si Fantasios. Chiamava? Fantasios. Allora, Baba, ovviamente Elisabetta Fusconi, sponsorizza il Lago di Lugano. Lorenzo Nespoli rilancia con il Lago di Tenno in Trentino, già definito da Elisabetta Fusconi una pozzanghera praticamente. Insomma, c'è una disfida, amici tra l'altro del Lago di Tenno, sappiate che Elisabetta Fusconi vi definisce così, una pozzanghera. C'è un lago molto romantico per le coppie innamorate. Attenzione. Lago di Brailes. Se vuoi fare una gita romantica in un luogo molto romantico, vai al Lago di Brailes e ti vivi questa dimensione magica. Sono sicuro che ti sarai mollato tu al Lago di Brailes con qualcuna. Sicuramente avrai vissuto. Errore. Falla partire, Alpino. Tu falla partire comunque, dai. Non ho amarezze stavolta legate al Lago di Brailes, non ci sono mai stato, ma mi ha raccontato un amico che ci è stato con la fidanzata e poi loro sì, si sono lasciati. Questo è vero. Ecco. E anzi, lui pensava che dopo quella gita sul Lago di Brailes la loro vita di coppia sentimentale avrebbe... Brailes, non Brailes, Brailes. Non sottilizziamo. Lui pensava che dopo la gita al Lago di Brailes la sua vita sentimentale avrebbe avuto un'accelerazione positiva, invece quello alla fine è rimasto l'unico episodio gradevole di quella vita. Leggo qua che il Lago di Brailes è di colore smeraldo, fantastico lago naturale. Siamo in Alto Adige, tra le Dolomiti, per chi non... Vabbè, quindi Lago di Brailes, Lago di Lecco, che forse non esiste, Lago di Como, sul ramo di Lecco, allora forse è meglio, Lago di Tenno, Lago di Lugano, Lago di Garda, Lago del Garda. Qual è il lago migliore? Partita questa inutile, totalmente inutile sfida qui in questa puntata di Nessuno 100.000. Andiamo al giornale radio e poi la seconda ora. 1 Nessuno 100.000. Caro Manera, io abito a Como e ti dico che il mio lago è meraviglioso. Il lago di Garda lo conosco, ma mi sembra più un mare, data la superficie, la vastità, e non ha le caratteristiche e l'affascino del lago di Como. Mi spiace, caro. Milan, vince a man bassa il lago di Garda. Ci sono molte più tedesche. Occhiolino, occhiolino. Io dico che fanno pena tutti e due, senza offesa per la pena, perché possono fare a pari e dispari a chi è più sporco e viscido soprattutto. Ciao ragazzi. Dai Manera, forza, che domani sei a Bologna e si ricomincia, vai! Attenzione, adesso no, diciamo no, tutto. No. Errore, no, è il mese prossimo, errore. È il 30 luglio che sono a Bologna, non il 30 caro giugno. Caro ascoltatore, sei sicuro? Perché guarda che io certo. Mi fido più dell'ascoltatore. No, il 30 luglio, sicuro? Però posso anche dire invece, sì, certo, che il 12 luglio sarò a Numana, nelle Marche. Che quindi... bello, adesso iniziamo, vedi, vuol dire che torna la normalità. Adesso però abbiamo creato un problema, perché non ti dimenticare del Lago Maggiore, firmato da uno svizzero che ama l'Italia. Igor invece, quelli che vanno al lago rischiano di essere divorati dal lucio assassino. Il lucio assassino. Flavio invece dice il lago di Sorapis vicino Cortina, mentre la gente del nostro lago vuole chiamarsi Laghe, certo, Giuseppe da Como, il lago di Curon, quello da dove esce il campanile, anche se è un lago artificiale. Il lago di Braies è il più bello di tutti, un altro ascoltatore, e poi arrivò alle 10.09 Danilo di Trani, che invece di starsene lì tranquillo a tifare Milan come dovrebbe fare, ci propone il lago di Varano lungo la costa del Gargano. Il lago di Varano, a me Varano fa subito in venire Varano di Comodo e mi viene un terrore incredibile. Il lago di Varano. Vabbè. Comunque l'importante è sfatare che nei laghi non ci sono i lucci che arrivano a morderti le gambe. No, grazie, ti ringrazio. Neanche i polpacci, neanche. No. Salutiamo con piacere Stefano Geller. Ce l'avamo lasciati venerdì con la promessa di risentirci un po' di più. Il nostro caro amico Stefano, ciao. Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Ricordiamo Stefano Geller. Certo, come stai? Io lo dico sempre perché insomma, sono un po' noioso, però per chi non ti conoscesse, insomma, è affetto da una forma grave di distrofia facioscapolo omerale. Tu di fatto sei in carrozzina, cioè fai fatica a muoverti, ecco. Beh sì, carrozzina elettrica e poi ho difficoltà delle cose quotidiane, diciamo. Bere, mangiare, non riesco da solo, quindi hai bisogno di un'assistenza, certo. La scorsa settimana sì, ci hai ricordato anche un po' quanto poco. Ecco, che effetto ti fa sentire, ma per carità non vogliamo fare gente contro, ma bonus di qui, bonus di là. L'ultimo bonus è per i nonni babysitter, viva i nonni babysitter. Però qualcuno dice, beh, magari diamo un po' più di soldini, non so, a tutta la categoria delle varie disabilità che ne hanno bisogno. Sì, soprattutto poi l'altro giorno che ho sentito la notizia della cassa. Che dei vitalizi. Esatto, mi è venuto un po', ecco, pensando di dire più di tanto, ecco, e vabbè. Si fa, ecco. Come, cioè, cosa ti è venuto? Un po' di rabbia? Sì, diciamo di sì. E invece di rinunciare a qualcosa che già prendono diversi soldi e darla a chi ha una pensione minima, diciamo che fa un po' di rabbia. Fa un po' di rabbia, anche se abbiamo detto mille volte è un provvedimento simbolico, cioè Stefano, non è che da quel risparmio uscirebbero granché, forse se li dovessero distribuire a tutti i disabili verrebbe un euro a testa, no? Perché sì, però sarebbe comunque un segnale da dare a chi ha difficoltà ogni giorno, ecco, di pagare delle spese essenziali. Per esempio, si dice adesso si avvicina l'estate, beh, molti italiani non andranno in vacanza. Ci racconti tu cosa fai d'estate? Hai fatto qualcosa mai di diverso? Una vacanza? Come ti muovi? Ti muovi? Non ti muovi? No, come ti dicevo all'inizio della mia storia, più di 30 anni che non faccio una vacanza, neanche di un weekend, quindi ecco, lì è nato il desiderio di fare questa famosa vacanza a New York, che quest'anno ovviamente ho dovuto lasciare da parte. Vediamo quest'anno ad agosto se magari riesco a fare qualche giro qua nelle vicinanze. Ma di solito, perché non c'è, siccome ci sono dei volontari, ci sono delle associazioni che ti aiutano, non è previsto anche solo fare la gita di un giorno, non so, andare, appunto, prima si parlava di laghi, andare a prendere il sole al mare, andare, ci sono delle strutture. Sì, però la mia difficoltà è, con la disabilità grave, proprio anche lo spostamento dalla carrozzina a, non so, sdraio o cosa, serve un sollevatore, ecco, sono cose un po' più particolari che magari il classico ragazzo disabile che magari riesce a fare anche qualche spostamento da solo, tu invece no. Tu invece no. Esistono anche strutture, esistono anche strutture in qualche modo dedicate dove c'è più attenzione per la disabilità. Io ne ho in mente una, per esempio a Jesolo, dove sono anche stato. Forse non so se hai avuto modo di cercare qualche struttura di questo tipo. Sì, sì, a Jesolo infatti avevo sentito anch'io, solo che ovviamente poi di base manca magari trovare la persona che ti accompagna e ovviamente poi anche da un punto di vista economico. E quindi diciamo sempre rinunciato per questi due motivi, ecco. Ma dobbiamo fare, visto che non possiamo portarti a New York, dobbiamo fare Leonardo, sei d'accordo? Dobbiamo cercare di fare almeno un weekend da qualche parte, o una giornata. Guarda, i soldi raccolti finora li ho tenuti là da parte, vediamo, ovviamente di magari una minima parte li userò per fare qualche weekend, ecco. Perché secondo me ci sarà qualcuno. Ricordiamo, tu dove abiti? Dove abiti precisamente? Io sono in provincia di Vicenza. Ci sarà qualcuno, qualche associazione, qualche volontario che anche a fronte ovviamente di un pagamento per la parte, come dire, non so, la benzina, eccetera. Che l'affitto, se serve di un trasporto speciale, che è pronta a dire ok, il giorno torno, non so, weekend prossimo, tra 20 giorni ti porto al mare a passare una giornata. Cioè, tu da quanto è che non vedi il mare? Parecchi anni, diciamo. È un bel po', sì. Non ricordo neanche il periodo esatto che sono stato l'ultima volta, ecco. Cioè, non lo so, dobbiamo pensare a qualcosa, Stefano. Adesso pensiamo a qualcosa nei limiti delle nostre possibilità. Cioè, non è che siamo noi a dover organizzare, però cioè, dal punto di vista economico, se c'è bisogno, io ti aiuto. Se però dobbiamo trovare qualcuno che ti porti, insomma. Che, sì, adesso che sto probabilmente ad agosto la mia assistente a mese di ferie. E quindi adesso forse ho trovato un amico che quel desiderabile a farmi assistenza. Okay. E quindi vediamo di se riesco a organizzare di fare ecco. Un giorno, anche solo un giorno, a dire vedere il mare, andare lì e passare una giornata diversa. Sicuramente. Stefano, ci vediamo, mandaci anche i contatti di quest'amico, mandaci i contatti se c'è qualche struttura da qualche, perché hai anche diverse esigenze ovviamente quando ti muovi, sì, e quando stai a me è venuta in mente quella appunto, perché appunto ci ho lavorato e ho visto che c'era molta attenzione per situazioni di quel tipo. Non è nemmeno lontano adesso, da Vicenza, quindi esatto, la pensiamo, intanto ci teniamo in contatto. Stefano, ti ringraziamo, mi raccomando, mi raccomando Stefano Geller, forza, e ci sentiamo presto, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Ego d'orta, omigna, verbagna. Ma il Lago Maggiore si è prosciugato? Beh, se volete, tra il Como e il Garda in mezzo c'è l'Iseo. È il giusto compromesso a metà strada. Poi in Abruzzo abbiamo il lago di Scanno, panorama che ti mozza il respiro. A questo punto Anacleto direbbe: oh ragazzi, e c'è il padule di Fucecchio che è il meglio di tutti. Elisabetta Fusconi, in Trentino abbiamo 300 laghi, lo sapevi? Se vuoi ti posso accompagnare in un centinaio. Ciao, Fiorella. Certo, Elisabetta Fusconi che nella chat interna ha definito una pozzanghera il lago di Tenno. Io ovviamente ho preso subito questo messaggio e ho reso edotto il pubblico perché i trentini si potessero scatenare nei confronti di Elisabetta Fusconi. Ci sono almeno 300 laghi, ti prendono per la manina dalla tua manina svizzera, ti conducono verso i 100 laghi trentini. Signori, niente, Leonardo, abbiamo finito questo momento di autopromozione. Questo turistica. Momento lacustre. Ognuno ha. Ecco, lacustre. Lacustre è un bel aggettivo. Lacustre, che capiscono tutti. Lacustre, legato al lago. No, perché sai, io qualche giorno fa, quando ho visto questo documento del Ministero dell'Istruzione. E in questo documento c'è scritto che la riapertura delle scuole potrà avvenire se sarà consentita, se sarà mantenuta la distanza di un metro tra le rime buccali dei ragazzi. Le rime buccali. State tranquilli, siamo andati tutti sul vocabolario a cercare un vocabolario oppure su Google a cercare. Certo. Se voi foste Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, non avreste di questi problemi, ma Claudio Marazzini, presidente, buongiorno, grazie di essere qui, le rime buccali, si potrebbe intanto capire come mai c'è qualcuno all'interno del Ministero dell'Istruzione che decide di, non so, cosa fa, sfoggiare la propria erudizione nello scrivere un documento con scritto rime buccali. Dunque il documento non lo bocche, sono le bocche. Cioè. Possiamo forse cominciare a spiegare che cos'è sono queste rime buccali. No? Esatto. Allora, il documento del Ministero le cita tra virgolette, perché l'ha tolto di peso dalla relazione dei consulenti scientifici, quindi dei medici. No? I medici, in particolare gli anatomisti, usano questo linguaggio. Ai medici, ma fin dall'epoca all'epoca antica, insomma, non è mai piaciuto parlare come gli altri. Tutti gli scienziati, del resto, hanno una loro lingua speciale. E queste rime buccali che si trovano nei manuali di anatomia, io le guardo anche con un po' di simpatia, le confesso, perché i medici, quando smettono di parlare in latino, perché le rime sono semplicemente una parola latina, che vuol dire taglio, spacco, frattura, no? Quando smettono di parlare latino, oggi sono meno umanisti e parlano inglese. C'è un'università che non nominerò, che sta facendo un convegno, organizza un convegno su il coronavirus al tempo dell'aging. Dell'aging, cos'è, allora, la terza età? L'aging è esattamente l'invecchiamento, no? L'invecchiamento. Allora, io non lo so se appunto bisogna parlare speciale, quindi non si deve più dire invecchiamento. Non si deve più dire si diventa anziani, si dice l'aging, va bene, no? Lo consiglieremo anche agli stagionatori di prosciutti, va bene? Perché l'invecchiamento è anche la stagionatura, l'aging in inglese. Allora, quindi i medici devono parlare diversamente dagli altri, gliene diamo atto. Tra l'altro questa rime di cui stiamo parlando, sì, non lo usano solo i medici. Io sono un dilettante astrofilo, sono due telescopi, guardo il cielo. E chi si occupa, si diletta di astronomia, conosce le rime della Luna. Anche nella Luna ci sono, sì, le rime, che non sono le rime della poesia, diciamo, sono le rime, sì, della poesia, che non è una parola latina perché è di origine germanica come ritmo, per quella della poesia. Poi ci sono le rime latine, che vuole dire tagli e spacchi, e sulla Luna, nei crateri, ci sono dei tagli che quando il magma dei crateri si è raffreddato ha prodotto delle fratture. E quindi, sì, gli astronomi parlerebbero delle rime della Luna, come, certo, i medici. Quindi rime, rime in questo caso frattura, cioè apertura, sì, l'apertura della bocca, cioè ecco, potevano allora scrivere le bocche, ecco, le rime poi vediamo le bocche. Allora, perché l'anatomista scrive così? Perché l'anatomista guarda in questo cadavere che è lì sul tavolo, sta osservandolo, la bocca, non è la bocca se devo dal giro pasto, la bocca mi bacio tutto tremante. E la bocca senza le labbra è un buco, no? Che comunica tra interno del corpo e esterno del corpo, certo, così come, certo, gli occhi, per esempio, ci sono anche le rime delle palpebre, anche quello, certo, è un taglio, no? E addirittura gli ortopedici parlano delle rime di frattura. Le rime di frattura, sì, sono i due lembi della frattura da congiungere. Sì, però io, no, non capisco, no, professor Marazzini, perché non si possa dire né aging e né rime buccali, ma bocche. Ecco, allora perché... cosa è successo? Perché lì c'è un problema che, insomma, i medici li abbiamo visti un po' discutere, litigare, epidemiologi, specialisti di virologia, non ho detto tante, no? Voglio dire, c'è anche un po' dente avvelenato, io ora ho lasciato l'università per raggiunti limiti di età, però ricordo gli scontri continui nell'università tra gli scienziati e i medici in particolare, che accusavano gli umanisti di essere confusionari, cialtroni, di non avere cose chiare, eccetera, no? Quindi ho un po' dente avvelenato verso questa, sì, scienza, che delle volte fa molto la scienza, sono paludata, eccetera, eccetera. Certo, uno ci fa un ragionamento. Le rime buccali sono le bocche, siamo d'accordo, equivalgono le bocche, sì, sì, però il problema scientifico che sta dietro è questo, che se io ti dico di misurare la distanza tra i banchi, prendo un metro e la misuro, perché i banchi sono lì fermi. Il problema delle bocche è che sono attaccate alla testa, e allora la distanza tra le rime buccali, se lei si china perché le è caduta la gomma, si sposta di 50 centimetri. Mamma mia, secondo me il problema vero delle rime buccali che sono state, diciamo, si spostano, bocche, si spostano, è perché in realtà buccali, anche se è molto scientifico, finché sei sul tavolo di anatomico perché sei morto e ti apro la rima buccale, no? Ma nella vita comune le cose sono un po' più complicate, perché quella testa non sta ferma, giusto? Certo, infatti, vero, per i bar si era usato, i ristoranti si era usato il criterio della distanza tra i mobili, tra gli immobili, cioè tra i tavoli, sì, eccetera, no? Quindi allora categorie... si comincia anche a capire, no, qual è il problema, cioè lì ci sono tante difficoltà per le riaperture della scuola, e quindi il ministero ha citato, tra, certo, virgolette, certo, una frase scientificamente ineccepibile, che naturalmente, come quando si parla difficile, quindi c'è il solito problema, in qualche modo elude un pochettino un problema che resta aperto, no? Per il resto, ripeto, che i medici usino le rime buccali, le rime palpebrali e le rime di frattura mi commuove, sì, quasi, sì, ma è chiaro, perché è chiaro, altrimenti si mettono a parlare in inglese e non sono manco più umanisti, una volta almeno meglio questo, un minimo questo, di apprezzamento per la cultura umanistica, che ormai ci sono dei medici anziani, perché Leonardo Manera aveva una domanda da farle. Dicevo che tutte le categorie professionali, ciascuna ha un linguaggio proprio particolare, ma che effetto produce questo linguaggio così complicato anche sulle persone comuni? Cioè ha un ruolo anche un po' di spaventare proprio le persone, di comunque di preoccuparle, o comunque di non farle sentire l'altezza? Eh beh sì, questo è un vecchio problema, latinorum, nei sposi, no? Si sa benissimo che si parla difficile. Lo può fare proprio per schiacciare l'altro, per intimorirlo, per non farsi capire, ci sono tante ragioni. Si capisce che a volte può anche essere interessante, può suscitare una riflessione, per esempio questa che abbiamo fatto stamattina, quindi possiamo ragionare sulla presenza di questi termini tecnici in contesti diversi, per esempio il fatto che delle rime usate anche dagli astronomi, anche gli astronomi sarebbero normali. Quindi la riflessione sulla lingua poi può essere anche di stimolo e di grande interesse. E certo non bisogna rimanere inerti, cioè ci va una reazione davanti alle cose, quindi bisogna ragionare. Prima lei diceva, quando abbiamo letto rime bucali, anche io non l'avevo mai sentito, cioè rime l'avevo sentito per gli astronomi, ma negli anatomisti di solito io non leggo libri di anatomia e quindi non l'avevo mai trovato, però sapevo il significato latino, si capisce, no? Va bene, no, ma è chiaro. Noi intanto, professore, la ringraziamo, è sempre molto gentile. Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusc, che ci dà delle delucidazioni dal punto di vista della lingua. Certo, questo ci introduce al tema della scuola. Oggi alle 8:15, 8:20 è intervenuta il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, da Simone Spezia e Maria Latella, per spiegare come si ripartirà. Ha parlato di questo miliardo di euro trovati, li ha trovati lei, dicendo, chiedendo proprio a qualche dirigente del ministero. Noi un pochino di scuola parleremo tra poco, dopo la borsa, per capire allora se la scuola davvero è pronta. Lo faremo andando a sentire un preside, comunque, se è pronto con le rime buccali. Il linguaggio tecnico scientifico c'è in tutti i settori della vita. Per esempio, io ho il manuale del fai da te qui a casa e si parla di tappini traccia testimoni. Tu sai cosa sono i tappini traccia testimoni? Cos'è un tappino traccia testimoni? Vai a controllare. Va bene, no, io non vado a controllare. Al limite dico sfida Luchetti, tappino traccia testimone, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta 1 nessuno 100 Milan. Good times for a change. Milan, dai, facciamolo questo appello. Ho una raccolta fondi, oppure meglio ancora, chi ha una struttura si faccia avanti, chi ha possibilità aiutiamolo, anche se sono tante le persone che non hanno possibilità di questo genere, però è giusto, dai tuoi potenti mezzi facciamo questo appello, sai, abbi il coraggio. No, ma quale coraggio? Certo, mica ci vuole coraggio, ci vuole, anzi, siamo primi a dire, Stefano Geller vuole fare anche un giorno, due giorni di vacanze a un disabile grave, nostro amico, chiamato varie volte, e siamo pronti, insomma, qui, se qualcuno si fa avanti a organizzare un po' tutto, è in provincia di Vicenza lui e vorrebbe andare, che ne so, al mare, per esempio. Vediamo un po' se riusciamo. Tu ci avevi lasciato con un quiz, però, caro Leonardo, ma guarda che qua sfida Luchetti è vinta. I tappini traccia testimoni servono per la spinatura, che è una delle tecniche per giuntare e assemblare parti in legno. Esatto, quindi vuol dire che ogni tappini traccia testimone. Sì, certo, ma non è che hanno un nome, cioè nel senso non è che hanno un nome più semplice. Cioè, no, si chiamano così, tappini traccia testimoni. Cioè, allora, non è che cos'è l'amor, un modo complicato per definire come le rime buccali. Sì. No, io avrei chiamati solo tappini. Per esempio, dimmi cos'è la mortasa. capito? Sai la cos'è la mortadella? La mortazza, so cos'è la mortazza. No, vanno insieme. Allora, vanno sempre in coppia la mortaza e il tenone. Sai cosa sono? Il tenone. Sono sempre in coppia, mortaza e tenone. Sono sai cosa davanti sono? Al computer, quindi non mi costerebbe che 7 secondi di fare su Google mortaza e... Però non tenone. Lo farò, non faccio come a scuola quelli che copiano, hanno la possibilità di copiare ma fanno no, io sono onesto. Quindi ecco, dico esempio, non lo so. Mortaza e tenone hanno un modo più semplice per essere definiti, semplicemente un incastro. Miriam, a cosa servi, visto che già non lavori o lavori con la famosa tecnica Lucchetti? Serviresti a essere molto rapida nell'aiutare il tuo conduttore preferito, insomma, in questo caso. Niente, dico solo niente, che vabbè. Non bisogna andare dal macellaio, dal salumiere a dire mi dia un etto di mortaza, perché non è quello. Mortaza e tenone vanno sempre in coppia e sono un incastro del legno. Questa dimostrazione che ogni categoria professionale ha le proprie parole chiave, difficili. Sì, che non in attesa di capire mortasa e tenone, alle 8:15 noi abbiamo ospitato, noi come Radio 24, Simone Spezia e Maria Latella, la ministra Azzolina, ministra dell'istruzione. Allora, noi salutiamo il professor Francesco Fazzari, che torna dirigente scolastico al liceo Regina Margherita Adelaide di Aosta. Buongiorno, professore. Sì, buongiorno a tutti, grazie a voi. È quel dirigente di quella scuola di cui abbiamo parlato, dove ci sono stati due studenti che hanno chiesto di essere bocciati, uno in terza, uno in quinta, e sono di fatto poi stati bocciati. Ci fu anche una polemica, c'è stata una polemica. Lei l'ha capita la rima buccale? Mi scrivono dei medici dicendo: guardate che è un termine quotidianamente usato dai medici per riferirci a una sede anatomica. Va bene, ma in un documento di un ministero, però, che arriva ai presidi, la rima buccale, va bene. Lei sapeva cosa fosse la rima buccale? No, io ho dei dubbi anche sulle competenze linguistiche di chi ci governa, quindi non lo so che neolingua abbiano forgiato, quindi non lo chiedo a me perché sono piuttosto critico. Quindi, però abbiamo capito che prima dal presidente dell'Accademia della Crusca che insomma rima in quanto frattura e quindi apertura, insomma, in realtà viene dal latino e... ha un suo senso, insomma. Potevano dire bocche, ma hanno messo rime buccali. Però, non so, al suo liceo verranno rispettate? Ci sono gli elementi per rispettare le linee guida? No, non ci sono ancora, qui a livello regionale manca completamente un po' di programmazione e quindi ci ritroviamo noi a non avere neanche le aule, ma questo è un aspetto che probabilmente per chi ci governa è trascurabile. Non ci sono gli spazi e quindi oggi nel collegio docenti farò delle proposte su come organizzare la scuola a partire dal 14 di settembre, perché per la scuola è molto a cuore nella politica, nei cuori dei nostri politici. Per esempio io proporrò che il numero di ragazzi massimo che ci sta nelle aule frequenti regolarmente le lezioni e a turno gli altri li frequenteranno da casa con la didattica a distanza, turnando, perché io non ho altre soluzioni. Ma per esempio qualcuno, un infermiere ci ha scritto: scusate, adesso quando gli ospedali sono andati in difficoltà hanno fatto dei tendoni, addirittura i pronto soccorsi, i triage si sono allungati con delle tensostrutture fuori dalla scuola, dagli ospedali. Si potrà fare per esempio per le scuole, no? Non ha un teatro lei, una palestra? Ma sa che cosa? Il problema di fondo è questo, che secondo il mio modo di vedere, ma io sono un economista di formazione, però ho fatto la facoltà di economia, le cose vanno programmate con un certo anticipo, secondo me, perché altrimenti se non c'è programmazione c'è improvvisazione. L'improvvisazione è il 1° luglio, perché oramai siamo quasi a luglio, non ci può essere per il 14 di settembre. Quindi queste cose andavano secondo me già un pochettino viste nei mesi precedenti per arrivare con delle proposte concrete, perché per carità tutto è possibile, possiamo anche fare lezioni all'aperto, però sono sempre mille però quando piove. Sì, poi ad Aosta forse farà freschino già ottobre. A parte che il clima è cambiato, ahimè, ma detto questo, secondo dal mio punto di vista manca proprio la programmazione, una visione, una mission, e questo è quello che duole di più per chi come noi fa il preside nelle scuole, perché poi tutto viene demandato ai presidi, capisce? È questa la cosa, sì, la scuola dell'autonomia demanda tutto ai presidi, quando fa comodo tutto ai presidi, invece quando non fa comodo invece le decisioni vengono prese dall'alto. È questo che mi fa un po' arrabbiare, questa è la cosa. Tu, Leonardo, è una e secondo lei è troppo tardi adesso per immaginare appunto di utilizzare i teatri, anche se siamo ormai a luglio, perché comunque ma probabilmente in questo paese dell'emergenza chissà cosa si farà, chissà cosa si inventeranno. Per carità, io ad oggi non ho ancora ricevuto la minima informazione, nonostante abbia mandato lettere, sulle classi dove le avremo e quando le avremo, quindi per carità può darsi che tutti loro trovino la via di Damasco, non quella della capitale della Siria in questo momento martoriata, ma forse si illumineranno, non so come, ma non lo so, ecco. Vedremo. Ma io sono molto critico, ecco, nei confronti noi lo ricordavamo anche l'altra volta, e professore, vedremo a settembre, tanto adesso le linee guida ci sono, certo, effettivamente tutti hanno sottolineato che è stato fatto tutto con estremo ritardo, e questo è un po' il paese in cui si insegue sempre il tentativo di trovare una soluzione temporanea, ma sempre all'ultimo momento. Poi c'è la questione dei seggi elettorali, ricordiamo, non si è ancora capito se bisognerà poi, una volta riaperte le scuole, chiuderle immediatamente, perché ci sono le regionali, ed è qui che la proposta dell'infermiere che mi ha scritto una mail ha detto: ma scusate, ma mettete i seggi elettorali fuori dalle scuole, in tensostrutture. Cioè abbiamo accolto dei malati gravi con il pronto soccorso nelle tensostrutture, non possiamo fare votare in una scheda, in un'urna, una persona, e teniamo le scuole per le scuole e per gli studenti e per i professori e basta. Vedremo, mi sa che non riusciremo a fare neanche una cosa di buon senso come questa. Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Ma ci sono io? Dovresti esserci tu. No, perché ero basito e stavo cercando di leggere la cosa del tenone e della mortasa, insomma, pratica maschio e la femmina degli elettricisti o dei falegnami, questo. Esattamente. In maniera estremamente sintetica. Insomma, vabbè. Com'è che sono? Mortazza? Un etto di mortasa? No, mortasa e tenone. Questa dimostrazione che. Tenone. Ogni categoria ha i propri termini tecnici. Che passami il tenone alla mortasa. Va bene, adesso, a proposito di categorie, è venuta a trovarci, anche se sono un po' scomparsi dall'orizzonte, ma è venuto a trovarci il nostro virologo di fiducia, il professor Picchio. Effettivamente buongiorno. In TV non si vedono più. Buongiorno, come sono sta, il professor professore? Piero Picchio, buongiorno. Sono tornato, buongiorno a lei. Speravo di potermi ritirare sull'atollo caraibico che ho acquistato grazie alle mie partecipazioni in TV degli scorsi mesi, ma invece no. Il dovere mi chiama. Perché il dovere mi chiama? Perché molti miei colleghi stanno dicendo che il virus è in ritirata. Ma non è vero, non dobbiamo abbassare la guardia se non vogliamo una seconda ondata a ottobre o magari a settembre o magari a Ferragosto. Magari è già qui. Ha fatto bene a invitarmi perché le persone si stanno distraendo dal coronavirus e sembrano interessate ad altre cose inutili come vedere gli amici, fare le vacanze, godersi un'estate di libertà. Sbagliato! Quindi sono qui per chiarire alcune cose agli ignoranti all'ascolto, quasi tutti quelli che all'ascolto non sanno nemmeno cos'è l'acido ursodesossicolico. Ma forse neanche non la sapete, sfida Lucchetti ce l'ha. Non sapete cos'è l'acido ursodesossicolico? No, pretendete di tornare alla normalità. Io allora, effettivamente vuole, non lo so, professor Picchio. Se lei vuole tornare alla normalità, prima impari cos'è l'acido ursodesossicolico. Provi a ripeterlo almeno. Forse. Acido ursodesossicolico. Codico, però c'è Wikipedia. So. Allora, guarda che l'urso di Ole. So. Vorrei che gli ascoltatori Wikipedia che pochezza Wikipedia, scusi, Wikipedia. Sono ognuno degli strumenti, devo prendere un calmante. Allora, la formula C24 H40 o 4, sì, vabbè, sì. Vorrei che gli ascoltatori ripetessero da casa: lode a te, o viroli. Lode a te, o virologo. È bene, vero, tutti bene, insieme, bene. Mi raccomando, al 3, 1, 2, 3. Lode a te, o virologo. Virologo. Sì, allora, sì, grazie. Allora, facciamo una prova più semplice. Cosa c'è a destra del sodio nella tavola periodica? Vediamo. C'è anche lo questo. Lo sodio era 26, ignoranti. Secondo me. Io lo so, non me lo dico. Va bene, no, ce lo dica, ignorante, però ignorante. No, non lo tengo per me perché ho studiato. Voi continuate a vedere Temptation Island, guardate Temptation Island, fatemi affascinare, sì, da queste trasmissioni. Accidenti, era l'11 il sogno. Vabbè, allora sì. Oggi voglio rispondere alla domanda di qualche ignorante. Per esempio, Matteo da Cremona, Matteo, chiede se finalmente all'aperto si possono togliere le mascherine. Allora rispondiamo all'ignorante Matteo. Caro Matteo, ma ignorante, ti dà fastidio la mascherina? Perché siamo a luglio, fa caldo, poverino, lui vuole togliere la mascherina così può tossire sul vicino di tavolo mentre si ingozza di spaghetti allo scoglio. Vuole andare in giro a starnutire sulle maniglie delle porte, lo sappiamo. Ma no, Matteo, che va in giro, no, in cerca di maniglie su cui starnutire. E allora sai cosa puoi fare se ti dà fastidio tenere la mascherina? Stai a casa. A casa. Ti cerchi una bella ricettina online e il mojito te lo fai a casa. Questi qui non sanno neanche cos'è lo ione ammonio e pretendono di uscire di casa. Ione. Allora, sì, lo ione ammonio, lo sa lei cos'è lo ione ammonio? No, lei è un altro di quelli che va a fare l'aperitivo sotto casa. Sì, no, e non mi chiedo cosa sia lo ione ammonio. Gli alcolici. Ma no, si informa sul gossip degli amici, delle amiche, con chi si è messo questo, con chi sta quello. No, quello non mi interessa poco. E non sa cos'è lo ione ammonio. Ione ammonio, certo. Parlate di ione ammonio mentre bevete il vostro mojito. Allora, un'altra sarebbe domanda, una conversazione un po'... così, un po' morta, l'acido desossicolico. Allora, sì, un'altra domanda, vediamo. Francesca da Pavia vuole sapere se troveremo il vaccino. Allora, Francesca ignorante, non lo troveremo, no, se ce ne stiamo se ce ne stiamo a prendere il sole su un materassino, sicuramente non lo troveremo. Francesca, tu sei più preoccupata del vaccino o di abbronzarti in modo uniforme davanti e dietro senza lasciare i segni del costume che quando ti vesti si vedono? Allora, cara Francesca ignorante, voglio rassicurarti dicendoti che il vaccino non servirà se tutti scegliamo di stare a casa. Hai capito, eccola, Francesca? Ecco. Ti rimetti il tuo bel pigiamone con gli orsetti, tanto simpatici, e in un colpo solo elimini il problema del vaccino e quello della bronzatura. Va bene, cara Francesca ignorante? Ma non allora si chiama ignorante di cognome. Cioè... Per un'ultima domanda, sì, Andrea, sì, c'è tempo, da Perugia, sì, da Perugia, sì, fa la domanda, sì, che ci facciamo tutti. Il virus è cambiato? Ecco. È vero che ci sia male in modo molto più lieve? Oh. Allora, caro Andrea, ignorante da Perugia, ancora, visto che sai tutto, perché non rispondi tu? Ma sicuramente starai facendo qualcosa di fondamentale per il progresso dell'umanità, tipo un'insalatona di riso, Buona. Con i sottaceti presi al supermercato, bravo, continua così, fai l'insalatona di riso che è fresca. Di la verità, Andrea, che l'unico tuo cruccio è decidere se mettere le olive o no, eh? Quanto tempo è che non ti lavi le mani? 2 giorni, 2 settimane, 2 mesi? Lavale almeno prima di mettere le olive, se decidi di metterle. Io davvero non so più come dire che il virus è ancora in circolazione, anche se le persone sembrano non preoccuparsene più, purtroppo. Quindi l'unica cosa sensata da fare, certo, per questa estate 2020, qual è, caro Milan? Stare a casa. Credo che questa sia la risposta. Esattamente. Sì. Ora la saluto perché per dare buon esempio anch'io ho deciso di stare a casa, naturalmente nella mia casa sull'atollo. Sì, metterò, certo, anche la maschera. Senta, ma non sapeva che non riesco a vedere i pesci. Sì. Volevo dirle questa cosa, ma lo sapeva che l'acido urso desossicolico bolle a 203 gradi centigradi? Io sapevo questa cosa, ricordo di averla studiata. Ecco, allora, vada a informarsi un po' sull'acido desossicolico. Ha una massa molare di 392,56 grammi. Bravo. Sì. Allora, invece adesso di andare a guardare le sue trasmissioni Temptation Island, invece di andare a fare il gossip all'happy hour, si faccia una cultura e poi potrà parlare in una trasmissione radiofonica, come ha anche una formula che è C24H40O4, per esempio l'acido urso desossicolico. Sto cercando anch'io. Va bene, la ringraziamo professor Picchio, venga a trovarci quando vuole, contesto un pochino il modo in cui tratta i nostri ascoltatori ignoranti. No, lode a te o virologo. Lode a te o virologo. Sono bravo, ci troviamo domani. Sono bello e bravo.